sorrisi e i tuoi si sono spenti. Noi camminiamo insieme e siamo soli. Ci restano soltanto lunghi silenzi che vogliono dire addio, addio, il nostro amore. Acqua di mare è diventata sale, le nostre labbra inaridite non hanno più parole. Guardami, guardami, lo sai che non è vero. Addio, addio, addio, addio. Guardami, guardami, ascoltami, fermati. Non è vero, perché tu stai piangendo, perché noi lo sappiamo che ci vogliamo bene, che ci vogliamo bene e ci lasciamo. Addio, addio, addio.